Libiamo, libiamo negli lieti calici che la bellezza infiora, e là fugge, fugge, volora, s'inebria voluta. Libiamne dolci freviti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amore, fra i corici più cari bacio avrà. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacere. Godiam fugace rapido il gaudio dell'amore, un fiore che nasce e muore ne più si può godere. Godiam c'in vita il fervido accento lusinghiere. Sami ancora, non dite a chi l'ignora, il mio destin così. Odiamo la tazza, la tazza.